Questo pezzo si chiama Metanoia, è stato scritto contro il rigassificatore, che è quella cosa che vogliono costruire a Livorno sul mare. Ricordi il caldo mare di dicembre, i pesci palla, le alghe tropicali. Sembrava sempre estate, era novembre. I pescatori increduli ai segnali, e qualche miglia a nord navi cisterne, come dei dinosauri imbalsamati, allattano di nero il mare inerme, di soldi sporchi e gas leofilizzati. Ma il metano ci dà una mano a poter vivere in libertà. Poi al metano tu dai anche un piede e poi la testa che ci scoppierà. Boom! Il primo incontro con i barracuda, pesci crudeli visti in altre acque. Era gennaio e stavi in Bermuda, perplesso sul destino e come nacque. Più che metano è una metanoia, questa gran voglia di gassificare. E come idraulici della preistoria, si mette un tubo poi da contraltare. Ma il metano ci dà una mano a poter vivere in libertà. Poi al metano tu dai anche un piede e poi la testa che ci scoppierà. Ma col metano ci regaliamo un combustibile di qualità. Stato gassoso nei sentimenti, gas avvolgente che ci ucciderà, ci ucciderà, ci dura, ci ucciderà, ci dura, ci ucciderà, ci dura, ci ucciderà, ci dura, ci ucciderà.